Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il cuore di una donna non muta col tempo, né si altera col passare delle stagioni. Il cuore di una donna combatte a lungo, ma non muore. Quel cuore è fedele a se stesso, imperturbabile, placido e sicuro di sé. Su di esso la primavera rimane primavera, e l'autunno è autunno, fino alla fine del tempo. Khalil Gibran. Parigi, penitenziario di Saint-Lazare, 24 settembre 1917. In una piccola cella grigia, dalla forma vagamente squadrata, passeggia convulsamente una donna. È alta, slanciata, e le sue lunghe gambe snelle impiegano pochi passi per fendere il pavimento da parete a parete. Il suo sguardo fisso sui muri logori e tetri sembra perso altrove, non certo in quell'opprimente cubicolo in cui fin dal lontano 1683 hanno sostato e sospirato centinaia migliaia di condannati a morte. Uomini e donne, già inesorabilmente avvolti dalle tremende spire dell'oscura mietitrice, hanno atteso la loro ora fatale calpestando furiosamente quelle stesse identiche pietre. Ora tocca a lei, anche se ancora una volta una così amara conclusione le sembra impossibile. Se solo Monsieur Poincaré mi concedesse la grazia, avrei ancora molti anni da vivere, potrei riabbracciare i miei cari. Monsieur Raymond Poincaré, nella Francia dei durissimi anni della Prima Guerra Mondiale, altri non è che il Presidente della Repubblica. Lui, la più alta carica dello Stato, è l'unica speranza che le resta, il solo che possa pronunciarsi per l'annullamento del crudele vendetto con cui il Tribunale l'ha condannata. Per le ragioni suddette, il Consiglio di Guerra condanna all'unanimità l'imputata alla pena di morte mediante fucilazione. Non solo i giudici hanno emesso la loro sentenza, ma anche l'opinione pubblica lo ha fatto. In quei tempi così difficili di ristrettezze e bombardamenti, di inimicizie plateali, di alleanze intese sul campo di battaglia, è impossibile non dare credito alla serpeggiante cultura del sospetto. Basta poco, in fondo, per essere accusati di spionaggio. Una parola di troppo, un sussurro lascivo, un lieve impercettibile movimento. E non si può certo dire che lei, la donna dalla bellezza statuaria che passeggia forsennata verso la propria fine inesorabile, abbia mai risparmiato nel corso della sua vita una parola, un sussurro, un movimento. Anzi, tutt'altro. Ha sempre conversato, flirtato, amato e danzato con la passione e la spregiudicatezza di uno scommettitore incallito, di un giocatore d'azzardo che sappia lucidamente di poter perdere ogni cosa da un momento all'altro. Affronterò l'ennesima prova a testa alta, ma questa prova vorrei in tutta sincerità non doverla affrontare. So bene quello che ho fatto. Dopo aver stuzzicato le fantasie del demonio, ho flirtato addirittura col fuoco. Questa è la mia punizione. È giusta, è inesorabile. Ma tuttavia sono umana e non voglio morire, non ancora. I sospiri della donna si fanno più intensi, sorretti e ritmati dal suo incedere convulso e affannoso. I suoi passi sono leggeri all'apparenza. In realtà, quei piedi nudi premono sul pavimento come due pesantissimi macigni. Nulla hanno a che fare con la levità delle danze che seppero pochi anni addietro stregare l'Europa. Ora lei è una condannata, una spia, non certo e non più una danzatrice. Prigioniera o libera, condannata o assolta, ballerina o agente segreto, poco importa. Lei è tutte queste cose contemporaneamente. Lei è Mata Hari. Mata Hari. Mata Hari, in una cella del penitenziario parigino di Saint-Lazare, aspetta quasi rassegnata l'esecuzione della propria condanna. Quasi, si è detto, la seppur flebile speranza di ottenere una grazia da parte del Presidente della Repubblica Poincaré alimenta la sua inesauribile energia, la sua infaticabile voglia di vivere. Pensa al suo presente, ripensa al suo passato, agli orrori della guerra e agli errori, anche tragici, che ha commesso. Tutto sommato, Mata Hari rifarebbe ogni cosa da capo senza cambiare una virgola. Colei che sarà detta Mata Hari e diventerà una delle donne più celebri, idolatrate e poi detestate al mondo, fa il suo ingresso nel mondo il 7 agosto 1876 come una qualsiasi bambina olandese. Margaretha Ertruida Zelle è figlia di Adam Zelle, commerciante, proprietario di uno splendido negozio di capelli a Leerharden, una cittadina situata nella provincia settentrionale della Frisia, regione aspra e desolata al punto che persino gli antichi romani, colpiti dalla durezza del territorio, si pronunciarono così: un paese che non si sa se appartenga alla terra o al mare, dove gli abitanti vivono su terrapieni o piattaforme, sì che essi paiono marinai durante le maree, naufraghi nel corso dei riflussi. Il naufrago Zelle, tuttavia, se la passa piuttosto bene. L'attività commerciale gli consente di guadagnare bene e di ostentare, di fronte ai suoi concittadini perplessi, un abbigliamento sempre impeccabile. Pantaloni dalla piega perfetta, soprabiti con mantelline e preziose fodere colorate, cilindro in testa come se andasse ogni sera all'opera. La piccola Margaretha, la sua prediletta, non è da meno. Abiti rossi o blu cina adornati di pizzo, scarpette in camoscio morbidissimo, cuffiette in velluto coordinato. La piccola, oltretutto, spicca fra le coetanee non solo per i suoi abiti invidiabili, ma per le particolari caratteristiche fisiche. Tutte le mie amiche a scuola erano bionde con gli occhi azzurri. Io invece avevo la pelle più scura ed ero mora. Sembravo una bambina di un altro paese, di un'altra latitudine. Le bambine olandesi, abituate ad avere capelli color del grano e occhi color del cielo, trovano fuori dal comune la loro compagna Margaretha e guardano stranite la sua carnagione olivastra, quasi bruna, i suoi capelli nerissimi e gli occhi color del carbone in cui luccica inspiegabilmente una fiamma vagamente esotica. Il suo aspetto e il suo atteggiamento un po' altero la rendono diversa. Ama stare coi grandi, adora i loro discorsi e i loro atteggiamenti. Le piace far salotto quando la mamma invita ospiti per il tè. Ma nella vita tranquilla di Adam Zelle e della sua famiglia cominciano ben presto a spuntare fosche nubi. Gli abiti sgargianti e i manicotti bordati di calda pelliccia per Margaretha cesseranno momentaneamente di esistere. Il negozio di capelli del signor Zelle non conosce più le fortune di un tempo e la signora Zelle, come se non bastasse, si ammala gravemente e muore, lasciando il pover'uomo solo con tre figli a carico. Si sa, nulla è possibile contro il cieco accanirsi del fato. A Zelle non resta che spedire la giovane Margaretha, ormai una ragazzina, presso uno zio a Snake, una trentina di chilometri a sud della cittadina natale. Quel luogo squallido e provinciale non fa altro che acuire in Margaretha la nostalgia per gli agi dell'infanzia e il desiderio di poter un giorno non troppo lontano riconquistare lo status e le abitudini perdute. Il trasferimento a Leida per frequentare le scuole magistrali non migliora la situazione. La vita è deprimente e monotona e per di più funestata dalle noiose lezioni di pedagogia e dalle morbose attenzioni del direttore dell'istituto. Margaretha infatti ha ormai 16 anni e la sua conturbante avvenenza non passa certo inosservata. Abbandonato immediatamente il collegio e con esso il pericolo di venire insidiata, la giovane si trasferisce a Laia, presso la casa di un parente. Qui, finalmente, respira un'atmosfera che le piace. Laia era una città, una vera città, finalmente. Non desideravo altro, abituata com'ero, mi sembrava di stare nel luogo più caotico ed eccitante del mondo. Certamente fin lì era il luogo più caotico ed eccitante che io avessi mai visto. Laia, verso la fine dell'Ottocento, è effettivamente una città assai viva. Un movimento incessante di persone affolla continuamente le strade colme di ufficiali e soldati tornati dalle Indie per trascorrere in patria un periodo di riposo. Decine di uniformi colorate, sciabole luccicanti, medaglie e decorazioni che brillano sui petti dei giovanotti in licenza. Le ragazze dell'età di Margaretha non possono restare insensibili, e certamente non lei, rara specie di gazza esotica irresistibilmente attratta da qualunque luccichio. È stregata da quei volti abbronzati, dal piglio sicuro di chi avvezzo al comando e alla disciplina, dai frammenti di discorsi che evocano terre lontane, avventure e fantasie viste solo nei libri. Spesso mi sorprendevo a chiedere a me stessa che sarebbe stato di me, della mia vita. L'Olanda, il paese in cui ero nata, mi stava tremendamente stretto. La mia fantasia galoppava e io le stavo in sella, salda e fiera come un amazzone. Margaretha per sé non immagina certo un futuro come insegnante in una scuola elementare, intenta a dirigere a bacchetta una torma di bambocci scalmanati e urlanti. La sua sete e la sua fame di vita, di esperienze, hanno bisogno di essere placate. E lo fanno temporaneamente e provvidenzialmente, grazie a un ritaglio di giornale. È così che avviene l'incontro tra la signorina Zelle e il suo, di lì a poco, marito. Lessi per caso un annuncio su un quotidiano. Diceva: capitano reduce dalle Indie Orientali incontrerebbe ragazza di buona famiglia a scopo matrimonio. Ho chiuso gli occhi. Già mi immaginavo la divisa inamidata, il portamento fiero, lo sguardo profondo e capace di contenere in sé tutte le meraviglie d'Oriente. Gli scrissi, senza alcun indugio. La fantasia di Mark Reita galoppa a larghe falcate. I due iniziano una fitta corrispondenza epistolare che si concluderà, spera la giovane, con un romantico incontro. La data fissata per il fatidico appuntamento è il 30 marzo 1895. Il luogo è il già celebre Rijksmuseum di Amsterdam. La ragazza si immerge nei preparativi, perdendo inevitabilmente di vista il fatto che, con tutta probabilità, il matrimonio non sarà la soluzione definitiva alla sua inesauribile sete di esperienze. Il 30 marzo 1895, Margaretha Zelle varca col cuore palpitante la soglia del Rijksmuseum di Amsterdam per incontrare il capitano Rudolf MacLeod. Questo è il nome dell'autore dell'inserzione. Cerca di sembrare disinvolta, fasciata nel suo ampio abito azzurro, vuole apparire attenta ai fatti della cultura e per questo percorre con studiata lentezza l'intero salone del museo, soffermandosi lungamente davanti alle vetrine che contengono manufatti archeologici di varia natura, un po' per ostentare interesse e un po' per controllare l'acconciatura specchiandosi, per quanto è possibile, nelle pesanti lastre di vetro. L'ufficiale entra nella stanza frugando con lo sguardo tra i presenti. Quasi non gli pare possibile che quella giovane in fiore, le guance di velluto vermiglie per l'emozione, sia proprio la sua futura moglie. Anche lei condivide le stesse fragorose emozioni. Era dritto e forte nella sua uniforme sgargiante, il petto coperto di medaglie. Tra tutte le persone che affollavano quella stanza, ero certa, il mio capitano non poteva essere che lui. Il capitano MacLeod è estasiato e persino emozionato nel porgere immediatamente il suo braccio a quella rara bellezza, posando lo sguardo sul corpo flessuoso di lei, sulla vita sottile, la folta chioma scura, gli occhi magnetici, la bocca così ben disegnata. Anche Margaretha fatica a trattenere l'entusiasmo. È rapita dall'aria vissuta, dal modo di fare deciso e autoritario di chi, evidentemente, è abituato a comandare ed essere obbedito. Non si accorge, o forse non vuole vedere, che al di là dell'irresistibile fascino della divisa, quel piglio severo e incline al comando sarà una delle cause della sua prossima tremenda infelicità. Ma è ancora presto per preoccuparsi delle conseguenze, di fronte all'impeto di un amore che sboccia. I due non perdono tempo, non ne hanno alcun interesse. Margaretha, ormai diciottenne, non vede l'ora di emanciparsi del tutto dagli ormai pochi vincoli familiari che le restano e in MacLeod, oltretutto, ravvisa la figura di un traghettatore pronto a introdurla in mondi fantastici ed esotici, mai esplorati prima. Il capitano, dal canto suo, è stanco dell'ossessiva disciplina della vita militare. La compagnia di una donna amabile è proprio quello che fa al caso suo. Il matrimonio ha luogo l'11 luglio 1895, con rito civile in municipio ad Amsterdam. Il ricevimento che segue è a dir poco sfarzoso. La sposa splendida più che mai. Teatro dell'evento è il leggendario Café Américain di Amsterdam. La prima tappa del viaggio di nozze è Wiesbaden, luogo di villeggiatura assai alla moda. Tutto nella vita dei coniugi MacLeod sembra procedere all'insegna del lusso e del divertimento, tra cene, pranzi, danze e l'impeto propulsore di un amore alle primissime battute. Tornati ad Amsterdam è iniziata inevitabilmente la quotidianità coniugale. Margaretha si scopre a intravedere i limiti della sua scelta. Sono irrequieta e non saprei nemmeno spiegare il perché. Qualcosa non va nel mio matrimonio. Sognavo un uomo in divisa, le sue braccia forti, la sua capacità di stupirmi. E invece mi ritrovo sola, accanto ad un uomo che non riesco, non posso comprendere. La fantasia di Margaretha, ormai diventata signora MacLeod, corre a più non posso, ma la realtà non sta esattamente al suo passo. Il capitano è sì un uomo dell'esercito, ma non certo un principe azzurro. Indurito dalla vita militare, MacLeod, dopo l'euforia iniziale, si è stancato in fretta della sua bella moglie, diventata nel gennaio 1897 anche madre di suo figlio. Il capitano aspetta con trepidazione un'unica notizia: il reintegro in servizio e il ritorno in colonia nelle Indie orientali. Finalmente, alla fine di quello stesso anno, i coniugi MacLeod partono alla volta dell'Asia. Il capitano è raggiante e sua moglie lo è altrettanto, convinta com'è che cambiare aria non possa che giovare al suo matrimonio. Ancora non può sapere che quel viaggio, quel soggiorno, non produrranno effetti positivi sulla relazione con il marito, ma finiranno col cambiarle radicalmente la vita sotto moltissimi altri punti di vista. Appena imbarcata sulla nave Princess Amalia, l'immaginazione di Margareta inizia a fluttuare insieme alle onde che si infrangono sulla punta del piroscafo. Le torna alla mente tutto ciò che ha sentito dire sulle Indie. Il paradiso terrestre, le magnificenze di una natura rigogliosa e soverchiante, i vulcani, le piante rare, le spezie. Le sembra lecito riporre ogni fantasia, ogni speranza in quella terra sconosciuta. E non sbaglia. La destinazione della famiglia MacLeod, Ambarawa, un villaggio al centro dell'isola di Java, è un luogo di una bellezza sconvolgente. Nulla ricorda i paesaggi olandesi. Palme, orchidee, felci attorniano piantagioni infinite di canna da zucchero, tè e caffè, campi di tabacco, alberi di caucciù. Contadini dalla pelle scura badano alle risaie, mentre le donne dai capelli d'ebano, avvolte nei sarong multicolori, sgranano i chicchi intonando dolci canzoni. Tutto ha un profumo e un colore diverso. Ogni cosa è turgida e splendente. Rudolf mi trattava in maniera sempre più fredda e scostante. Io mi consolavo immergendomi nelle meraviglie di quel luogo incantato. Un giorno Margareta si reca al tempio indù per assistere a una danza in onore della dea Kali. Avvolta nel buio di quelle stanze scure e intrise dell'odore dell'incenso, la giovane donna assiste a una danza al contempo erotica e sacra, furibonda e delicata. Nel buio la figura della danzatrice ondeggia, seguendo un ritmo via via più incalzante e sensuale, scandito da tamburi e fiamme di luce. Sembra una statua palpitante, la cui nudità è insieme scandalosa e pudica, irresistibile e benefica. Affascina, corrompe, ammalia, distrugge. Questo è il potere terrificante di una dea. Per Margareta si tratta di una rivelazione. Quella danza sprigiona un'energia inesauribile e lei, eternamente affamata di vita, riuscirà a farla sua. Destini incrociati. Destini incrociati è sulla splendida isola di Giava, dove la giovane Margareta Azelle, la futura Mata Hari, ha accompagnato il marito, capitano di stanza nelle colonie delle Indie orientali. L'Oriente è un luogo magico, così diverso dal piatto e compassato panorama dei Paesi Bassi. Purtroppo per Margareta, però, è tempo di rimpatriare. Lei, il capitano MacLeod e la figlioletta Non, nata qualche tempo prima proprio sull'isola di Giava nel 1902, fanno ritorno ad Amsterdam. I dissidi coniugali nel grigiore della vita olandese non fanno che acuirsi. I MacLeod si separano in maniera decisamente traumatica. Il capitano se ne va di casa portando via con sé la piccola Non. Per Margareta è un nuovo lacerante dolore dopo la morte improvvisa del primogenito Norman. Cerca di ricomporre la frattura col marito, invano. Non le resta che partire. Un'amica mi disse: «Ma come, non sai che tutte le donne abbandonate dal marito vanno a Parigi?» Fu così che decisi dove andare a ricostruirmi una vita. Margareta ha solo un'idea vaga di cosa rappresenti la Ville Lumière di quegli anni d'inizio secolo. Di fronte a sé trova una città piena di fontane dai mirabolanti giochi d'acqua, accesa dallo scintillio delle luci e delle vetrate multicolori dei grandi magazzini. La notte poi tutto si illumina e si muove ancor di più. Splendono le dorature e gli specchi nei locali alla moda, dove la cipria si mescola col sudore, il raso con le piume e la luce elettrica conferisce al tutto un nuovo accecante splendore. L'Azelle, caparbia e determinata, con le sue grazie e la sua intelligenza, si inserisce immediatamente nei circoli della buona società, nel patinato mondo della Belle Époque fatto di carrozze e liaison, di champagne e adulterio. La sua bellezza, corroborata dai tratti vagamente esotici, attira l'attenzione di molti. Quando nel corso di un ricevimento Margareta si ritrova a interpretare per gioco alcune figure di danze imparate a Giava, i presenti esplodono in un'ovazione fragorosa. Quello è il suo destino. Il debutto di Margareta Zelle in qualità di esotica danzatrice avviene una sera a casa di Madame Krievsky, cantante con l'hobby di organizzare spettacoli di beneficenza. Il successo della sua performance è tale che qualche giorno seguente la rivista Le Siècle pubblica un articolo dai toni entusiastici sulla misteriosa danzatrice venuta dall'Oriente a portare magia, calore e grazia alla decadente civiltà occidentale. Le esibizioni nelle case private si moltiplicano. Le stupefacenti movenze esotiche di colei che si fa chiamare Lady MacLeod stregano un po' tutti, fino a giungere all'orecchio del più celebre e incallito collezionista di arte orientale che Parigi abbia mai conosciuto, Monsieur Émile Guimet. Émile Guimet. Lei era splendida, un prodigio della natura. Ebbe la fortuna di ammirare le sue movenze a casa di un conoscente. Rimasi esterrefatto. Dopo lo spettacolo feci modo di avvicinarmi a lei. La sua intelligenza pronta, la sua lucidità mi colpirono al pari della sua bellezza. Come avrei potuto farmela sfuggire? Monsieur Guimet propone alla danzatrice di esibirsi nella splendida, fascinosa, conturbante cornice del museo parigino da lui fondato qualche anno addietro. Le sue movenze indianeggianti, ispirate alle danze ammirate nei templi di Giava, saranno perfette in quel contesto saturo di manufatti ed atmosfera orientale. Di una cosa però Guimet è certo, la giovane performer non può continuare a usare il suo nome da ragazza, Margareta Gertrude Zelle, né tantomeno quello da sposata, Lady MacLeod. Per lei ci vuole un nome suggestivo che evochi la meraviglia dei tesori e delle magie d'Oriente, qualcosa che ricordi lo splendore di un raggio di sole che trafigge l'oscurità e la convenzione, che sia foriero di novità e di rinascita. Quello che ci vuole è una luce del mattino. È così che nasce, ed è questo che significa in lingua malese, Matahari. Monsieur Guimet inventa Matahari, la danzatrice esotica che sconvolge e rimescola i gusti della Parigi d'inizio secolo. Non solo l'arte orientale, ma tutto ciò che proviene da luoghi misteriosi e lontani, per uno come lui, è pane quotidiano. Émile Guimet nasce nel 1836 da un industriale, Jean-Baptiste Guimet, e da una pittrice che lo indirizza fin da piccolo agli studi artistici. Le arti figurative, così come l'amore per la musica, sono nel suo DNA. Ma la continuazione dell'attività industriale del padre, una volta adulto, ruba gran parte delle sue energie e del suo tempo. Émile porta avanti con fiuto e abilità l'impresa familiare che produce il primo blu oltremare artificiale, colore molto apprezzato dagli artisti, ma di difficile reperibilità ed estremamente costoso. Dunque, l'arte in qualche modo continua a far parte della sua vita lavorativa. Anche i viaggi d'affari vanno d'accordo con questa sua innata passione. Tra il 1876 e il 1878 decide di compiere un viaggio intorno al mondo insieme al pittore Félix Régamet, incaricato di fissare nei suoi schizzi ogni cosa degna di nota al fine di studiare, in un secondo tempo, le produzioni artistiche e le usanze dei vari popoli. Durante il lungo viaggio, Guimet resta affascinato, anzi stregato, dalle culture e dagli usi orientali. Tra gli europei che soggiornano in Estremo Oriente ci sono quelli che guardano, ascoltano, imparano. E poi ci sono quelli che non osservano, non ascoltano e non imparano niente. Quelli che si ingegnano di imparare la lingua, raccolgono le leggende, studiano i costumi locali, penetrano nelle usanze, si fanno degli amici indigeni, si abbandonano totalmente all'interno del paese in cui si trovano. E invece quelli che vogliono trovare dappertutto la loro lingua, i loro mobili, i loro alimenti, guardano come inesistenti gli abitanti con cui vengono a contatto, chiudono la vista ai paesaggi, voltano le spalle ai dettagli locali e trovano completamente ridicolo tutto ciò che non sia loro stessi. Ebbene, questi ultimi costituiscono la stragrande maggioranza. Lo spirito di Guimet è quello di un vero viaggiatore. Il tour alla scoperta di nuovi paesi e di realtà diverse dalla propria è un tipo di esperienza che molti nell'Ottocento hanno il piacere di affrontare. Non tutti però lo fanno con lo spirito giusto. Di ritorno dal suo viaggio, Emil, con gli occhi ancora pieni delle meraviglie d'Oriente, decide di aprire a Lione un museo dedicato a raccogliere la collezione di oggetti d'arte orientale che pian piano sta mettendo insieme con cura certosina. La fama della bellezza e del pregio dei manufatti che vi sono contenuti fa sì che nel 1885 il Museo Guimet venga trasferito nella rutilante Parigi, dove tutti possono ammirare le meraviglie provenienti dal Giappone, dalla Cina, dall'India. L'incontro con Margaret Azelle, l'affascinante danzatrice, a sua volta folgorata dall'Oriente, cui dona il nome di Matari, è l'ennesima tappa di un viaggio alla scoperta di tradizioni e usanze lontane dalle abitudini occidentali, all'insegna di un atteggiamento assai lungimirante di apertura nei confronti di culture lontane. Tu balli, e nelle tue movenze sicure, vive l'Oriente e vive la sua vita, lontana. Sta in te tutta l'infinita magia di Giava. Strane architetture evochi, le pagode, i fiori, i segni di una civiltà che ci sconvolge e ci esalta. La tua danza avvolge il cuore e i sensi, su essi tu regni. Il poeta Jean-Marie Dumont, autore di questi versi dedicati a Matari, ha la fortuna di assistere alla sua performance del 13 marzo 1905 presso il Musée Guimet di Place Jéna. L'attrazione principale della serata danza tra gli oggetti raccolti meticolosamente dall'industriale collezionista durante anni di ricerche. Quale miglior completamento alle inanimate rarità esposte che vedere volteggiare al loro cospetto una rarità esotica, una bellezza in carne ed ossa? Per l'occasione, la rotonda del museo, situata al secondo piano della biblioteca, viene trasformata in un tempio indiano adornato di fiori e di splendide cariatidi a seno nudo. La luce soffusa delle candele crea l'atmosferica colma di mistero in cui si inserisce alla perfezione Matari, accompagnata da un'orchestra che suona melodie in due giavanesi. Vestita di gemme e stoffe cangianti, la danzatrice offre tutta se stessa in modo scenografico e disarmante, scoprendo via via centimetri di pelle nuda. Uno spettacolo eroticamente sottile che lascia l'audience rapita, senza parole. L'indomani il suo trionfo è sulla bocca di tutti e Matari, ormai esotica beniamina dell'alta società parigina, ci prende gusto. Sono nata a Giava e vi ho vissuto per anni, ma posso dire che i miei ricordi hanno ormai acquistato una dimensione planetaria. Sono figlia dell'India, ma anche e soprattutto figlia del mondo. Tutto si mescola in me, India ed Europa. E questo mélange è un po' la mia arte, la mia forza. Ai giornalisti racconta di essere nata a Giava, ad alcuni addirittura di essere figlia di un Marajà. L'alta società la adora e la insegue, gli uomini tutti, anche quelli con la divisa che tanto le piacevano anni addietro, le fanno una corte spietata. Lei li asseconda, ci gioca, li stuzzica, li irretisce. Matari in questi anni impara davvero l'arte fine della seduzione. La userà per i suoi balletti e per intrattenere i rapporti coi propri amanti, ma non solo, ne farà tesoro per addentrarsi in un territorio assai pericoloso, così pericoloso da mettere in gioco la sua stessa vita. I've got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling wings, though I've never flown. Got a mind on my own. Destini incrociati. Destini incrociati ha appena assistito all'esibizione trionfale di Matari presso il Musée Guimet di Parigi. La ballerina di danze orientali ha volteggiato, vestita di veli e lussuosi gioielli, attorniata dalla meravigliosa collezione di pezzi d'arte giapponese, cinese, indiana, malese e via discorrendo, raccolta dal ricco industriale appassionato viaggiatore Émile Guimet. La sua performance ha ottenuto un successo senza precedenti. Ha stupito, sconcertato, ammaliato, conquistato e polverizzato le certezze della buona società francese dei primi del Novecento. Era una donna splendida. Aveva una figura invidiabile. Io personalmente la preferivo quando si spogliava. È stata lei a inventare lo striptease, praticamente. Matari si concede e poi arretra, si spoglia e si nasconde, prima attrae e poi respinge. Mente spudoratamente sulle sue origini, dice di essere indiana, poi figlia di un principe, addirittura parente di uno zar. Lei era la promotrice di se stessa. Faceva tutto quanto era in suo potere per promuovere la propria persona ovunque fosse. Questo gioco le prese la mano e finì con l'esagerare. Il suo raro connubio di erotismo ed esotismo, la presa che ha sugli uomini di qualunque età ed estrazione, le fanno credere di avere tutto sotto controllo, anche quando decide di sfruttare il proprio fascino e le proprie conoscenze per passare informazioni al governo tedesco. Irretisce politici e alti ufficiali come un'incantatrice di serpenti. Usa le sue grazie e le sue arti divinatorie per sottrarre tra una danza, una carezza e una coppa di champagne materiale prezioso all'esercito francese. Avrebbe dovuto accorgersi dei pericoli cui andava incontro. Viveva pericolosamente fin troppo. Ma Matari non si ferma certo qui. Assoldata prima dalla temibile spia tedesca Anne-Marie Lesser, alias Fräulein Doctor, nome in codice 14GV, la danzatrice pensa bene di servire anche il nemico, praticando la sottilissima e antica arte del doppio gioco. Una donna affascinante, amante della bella vita e confidente di molti ufficiali più inclini alla vita tra le lenzuola che a quella sui duri materassi delle caserme, è il personaggio ideale per mettere in atto un pericolosissimo intrigo fra Francia e Germania, acerrime nemiche sulla soglia della Prima Guerra Mondiale. Matari, assoldata contemporaneamente dai servizi segreti di entrambi i paesi, sembra non sbagliare un colpo. Il brivido la stuzzica, la eccita, la fa sentire viva. Eppure sarà proprio quella stessa adrenalina ad avvicinarla inesorabilmente alla morte. Il doppio gioco di Matari, con l'infuriare della Prima Guerra Mondiale, diventa oltremodo pericoloso, se non addirittura insostenibile. Non tanto per lei, ma per i governi che fin lì hanno usufruito dei suoi servizi. Se è vero che un agente doppio è un'arma ideale di informazione e disinformazione, della sua fedeltà non si può mai essere sicuri. La Francia, pertanto, decide di bruciarla. Alle prime ore dell'alba del 13 febbraio, il commissario della polizia parigina Priolet, accompagnato da 4 ispettori, bussa alla porta di una lussuosa stanza d'albergo. L'hotel è l'Élysée Palace, nei pressi dei celeberrimi Champs-Élysées. E l'ospite di quella stanza, colei che giunge ad aprire alla porta con l'aria assonnata e gli occhi stropicciati, è la bella Matari. Anzi, a sentire l'ufficiale della giustizia militare che di lì a poco la interroga, lei non è Matari, è il temibile agente H21 al soldo degli odiati tedeschi. Sono innocente. Ho amato e amo la Francia. Però mi sono sentita e mi sento cittadina del mondo. In nome dell'affetto e della lealtà che io porto al vostro paese, non fate di me il capro espiatorio della terribile situazione che stiamo vivendo. L'olandese Margaret Azelle, in arte Matari, stando all'accusa, ha sfruttato il suo passaporto di un paese neutrale per viaggiare indisturbata in Europa, traghettando informazioni capitali ai danni della Francia. L'arringa appassionata del suo avvocato difensore non serve a salvarla. Signori della Corte, una cosa senza dubbio è certa. Matari, la qui presente accusata, eccitata dalla sua curiosità ambigua e sottile, spinta da ragioni che soltanto uno psicologo potrebbe intuire, si è avventurata talvolta sino alla soglia di giardini preclusi. Ha voluto assaporare frutti proibiti, udire musiche e canti degni della maga Circe. Ma non per questo è una spia. Dichiarata colpevole del reato di spionaggio e condannata a morte, Matari aspetta invano la grazia del presidente della Repubblica Poincaré. La sentenza viene eseguita il 15 ottobre 1917 da un plotone d'esecuzione di 12 zuavi, gloriosi veterani coperti di medaglie. Il fascino della divisa la strega anche in punto di morte. Un gendarme vorrebbe pietosamente bendarle gli occhi, ma lei no, morirà a testa alta, così come ha danzato, sbagliato, mentito, amato e vissuto. Meet you down.